Mix 24 di Giovanni Minoli. José Carreras, il grande tenore catalano, dopo il concerto a Roma per inaugurare il festival Luglio suona bene, ha iniziato un tour internazionale dal titolo A Life in Music, che lo porterà in tutto il mondo e che probabilmente segnerà il suo ritiro dalle scene. Ma chi è questo grandissimo interprete? Ripercorriamo la sua carriera con un faccia a faccia. José Carreras, catalano di Barcellona, figlio di una parrucchiera e di un vigile urbano, tenore, sposato con Mercedes, due figli, è uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Per anni è stato il simbolo del successo, della giovinezza e della felicità. Tournée in tutto il mondo, concerti, applausi e ricchezza. Poi, nel luglio dell'87 a Parigi, scopre ammalato di leucemia. Una visita dal grande ematologo Jean Bernard proprio il 14 luglio, il giorno anniversario della presa della Bastiglia. Poi una corsa disperata a Barcellona, infine il viaggio della speranza al centro oncologico di Seattle, dove subisce un trapianto del midollo osseo e inizia la chemioterapia. Da allora i momenti terribili sono passati e con la forza sono tornati i capelli, la voce forte e magica di prima e la voglia di vivere. Lui la rivincita se l'è presa un anno dopo, il 21 luglio a Barcellona. È tornato a cantare in pubblico sotto l'Arco di Trionfo, davanti a 150.000 persone. Di sé ha detto: dopo la malattia mi sembra di vedere le cose in un modo più profondo di prima e di notare qualcosa che prima mi sfuggiva. Ecco, signor Carreras, che cosa le sfuggiva prima che adesso invece vede? Beh, prima forse avevo un po', ero indirizzato a un nulla con questa corsa un po' della carriera, pensando soltanto alla carriera e lasciando un po' da parte delle cose che sapevo che erano là, che erano lì, che aspettavano. Invece adesso voglio assolutamente cercare di godere queste cose. Ecco, ne parleremo. Lei ha anche detto, infatti, in questi 9 mesi di malattia ho imparato una cosa importante, che devo pensare di più a me e alla famiglia. 9 mesi in un ospedale vuol dire che uno ha tempo di riflettere, tempo di vedere le cose con più serenità e allora di pensare di più in un modo rilassato, se si può dire, no? Allora io ho capito piano piano tutte queste cose e naturalmente uno fa dei programmi, fa dei piani per non cadere di nuovo in questi stessi sbagli, anche se poco a poco, piano piano... Si rischia di ricaderci. No, non soltanto si rischia, ma si ricade. Lei ha detto, di fronte alla malattia mi sono sempre sentito un guerriero. Sì, è vero, ho cercato di sentirmi un guerriero. Io ho sempre pensato, se c'è una possibilità fra mille, fra un milione, quella deve sarà essere la mia. Ecco, è quello che ho pensato. Ecco, comunque, per fortuna, tutto è finito. Prima della malattia, però, non si risparmiava proprio. Era divorato dalla paura di perdere qualche grande occasione, ho letto nelle interviste. Ecco, cantava in 7 città diverse nella stessa settimana, una volta per sera. Ecco, che cos'è che la rodeva dentro? Cioè, qual era la molla? La paura di perdere il successo, No, assolutamente no. Guardi, una cosa è molto chiara. Mi permetta di essere un attimo arrogante. Sì. Quando uno arriva a un certo livello in questa professione, ha offerte per cantare 3 volte al giorno durante 365 giorni all'anno. E a volte è molto difficile dire di no. Naturalmente arriva un momento che ci sono delle cose che artisticamente non puoi perdere, se vuoi essere dentro un certo circuito della carriera. Signor Carreras, prima di un'esibizione, che cosa fa? Cioè, quanto tempo si prepara, si concentra? Cioè, che cosa capita? Beh, io penso che in un certo modo, senza animo di esagerare, sì, il cantante quando ha una recita o un concerto, un recital, è un po' in uno stato di trance. Sì. Per molto che uno abbia una grandissima esperienza, per molto che uno si senta bene, per molto che sappia che il pubblico è con te, c'è naturalmente sempre il minimo che può avere un artista, che dire voglio dare il meglio di me stesso. Naturale. Logicamente questo ti porta a una tensione, a un senso di responsabilità, che in certi momenti, devo dire veramente, che possono arrivare ad essere nervosismo e addirittura paura. Ma per lei cantare cosa significa? Beh, se prima era qualcosa straordinaria in tanti sensi, nel senso professionale, artistico e umano, adesso è diventato un privilegio. Mm. È diventato un privilegio perché di nuovo ho la possibilità di trasmettere agli altri, come dicevo prima, quello che io sento. Senta, ma allora mi dica, il più grande tenore del passato? Dopo tutto io direi che Caruso. Perché? Che Caruso. Beh, anche lui ha cambiato qualche cosa, no? Nella Liga, ma lui aveva oltretutto almeno per quello che possiamo sentire nei dischi, era una voce da baritono con una tessitura da tenore, una voce di una qualità e di un'ampiezza veramente. Era un fenomeno vocale. Io credo che se dovesse parlare di un tenore, parlerei di Caruso. Caruso. Tra le donne del passato? Bella Callas. Sicuramente. Sì. Senta, c'è un momento della vita di un artista in cui si ha l'esatta sensazione psichica e fisica di essere arrivati, di essere completi, maturi? Essere completi, maturi, non credo. Di essere realizzati come artista o come essere umano, forse sì, ma di pensare che io adesso sono maturo... No, dicevo artisticamente. Cioè proprio la sensazione... No, che si può migliorare tecnicamente, ma insomma sì. Che c'è la maturità vera, insomma. Sì, ma io penso che la maturità viene anche di un modo incosciente. Non può dire un artista, sono gli altri che devono dire un artista è maturo, ma lui stesso non credo che si renda conto di questa maturità. Allora diciamo al contrario, i segni del calo sono segni visibili, sono cose che si possono percepire? Che il cantante lo se ne accorge. Sì, se ne accorge subito. Ecco, ma lei per esempio è capitato di fare degli errori e pagare con fischi sonori? No, fischi sonori no. Mai no. Fischiato? Sono stato fischiato una volta. E a lei le è mai capitato di prendere una stecca mentre... Sì, anche quello. Sì. Sì, ma questo succede. Ecco, come si recupera? Cosa capita dentro? Ma la stecca non ha importanza. No. Cioè, come si reagisce? Io penso che il vero appassionato... Sì. Non giudica un cantante per una stecca in una serata. Certo. Giudica per quello che un cantante dà nell'arco di una serata. La interpretazione, il personaggio, il modo di cantare, il legato, il colore di voce, la musicalità, tutte queste cose contano per il vero appassionato. Se poi succede che uno ha un piccolo incidente e ha una stecca, quello non ha nessuna importanza. Ecco, ma per esempio le parole non se le mai dimenticate? Io ho la fortuna di avere abbastanza memoria. Logicamente mi è capitato. E cosa si fa in quei casi? Beh, dipende, se ti capita di dimenticare le parole di Che genere di manina quando stai cantando in Italia, sono guai. Mi è capitato una volta, devo dire... Beh, certo, all'estero è più facile. No, mi è capitato una volta a Roma, cantando all'Eur, una serata bellissima, che cantavo proprio La donna immobile, voglio dire, se c'è un pezzo conosciuto è La donna immobile, e io mi sono assolutamente dimenticato le parole del mio libro, e ho detto, sempre cercando di tenere la musica, ho detto non me la ricordo più. Allora in quel caso era un encore, certo. era un voglio dire, è stato anche un po' anche divertente, divertente. No? Ecco, lei signor Carrera, se ha cantato in Vaticano la Misa Criolla, l'autore della Misa Criolla ha detto: ho scritto questa messa 25 anni fa, ora José, cioè lei, grazie alla sua religiosità, l'ha trasformata in un'opera universale. Io devo dire una cosa, no? A me è capitato di incidere la messa criolla una settimana prima di essere ricoverato in ospedale. Si era creato un ambiente durante l'incisione di mistico, di veramente molto molto speciale. E naturalmente dopo l'abbiamo rifatta, in Vaticano e in altri posti, ed è un modo straordinario per me, forse il modo più sincero, più autentico, più genuino che io possa avere per pregare, cantare questa messa. Ecco, signor Carrera, senta, lei appunto adesso ha anche un altro impegno serio nella vita, che è questa fondazione José Carreras per la lotta contro la leucemia. Mm-hmm. In concreto, che obiettivo avete? Beh, ci sono diversi obiettivi, ci sono diversi programmi, ma io credo che il programma più importante, l'obiettivo principale della fondazione è la ricerca, no? Perché soltanto con la ricerca credo che potremo un giorno arrivare a combattere in un modo definitivo. Veramente definitivo, esatto, sì. questa malattia. Ecco, ma lei che cosa si sente di poter dire a chi oggi è colpito dalla leucemia? Che consigli si sente di dargli? Quello che parlavamo prima, una possibilità su un milione, quella è la mia: lottare. E dopo le amministrative, in attesa del referendum di ottobre, la Sora Cesira, come sempre a modo suo, ci racconta le prossime sfide del nostro premier. Renzi, oh che magia, il consenso vola via. Renzi non è follia, chiamasi democrazia. E quando al cittadino ormai non gli vai più giù e al tuo PD il bottino non dà più, quando ci si accorge che non funzioni tu, e allora qualcun altro va lassù. Renzi, oh Renzi, ma che umore orrendo che avrai dopo la batosta che hai preso, che cosa farai? Avversari tanti ne hai, guarda c'è Bersani che balla sul cubo, lo sai. Renzi, oh Renzi, quanta invidia ed ipocrisia, c'è D'Alema nudo che brinda sotto casa tua. Se a Palazzo Chigi vuoi festeggiar l'Epifania. Notti magiche, inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana. Buongiorno Ale Cravetto. Ale, ciao. Buongiorno, ma hai visto la partita? Ho visto la partita e l'ho capita. Davvero? Ti giuro. E com'è stato possibile? Non lo so, ho capito che abbiamo vinto, che mi sembra già un'ottima cosa. No, abbiamo perso. Abbiamo perso? Ma scusami, ma noi quali eravamo? I blu e rossi? O i bianchi o i verdi? Io non ho più capito niente. Vabbè Ale, sto scherzando. Abbiamo stravinto, ovviamente. No. E domani c'è un grande classico che è Italia-Germania. Italia-Germania? Italia-Germania 4-3. Grandissimo. Hai visto? No, perché mi era venuto un dubbio a un certo punto, perché erano tutti vestiti di bianco. La Spagna che doveva essere rossa era vestita di bianco. Noi che dovevamo essere azzurri ogni tanto giochiamo in bianco. Ma... va il bianco quest'anno? Vabbè, Ale, scusa, certo che va il bianco. Estate, è scicchissimo, va sempre il bianco. Sì, ma com'è che scelgono i colori delle maglie? Io non ci ho capito niente, al di là della moda del bianco. Panico, aspetta. Però ho una news in diretta dalla regia. Valerio mi dice che chi viene designato prima, chi gioca in casa, viene designato chi gioca in casa e quello gioca con la sua maglia ufficiale. Sì, ma Italia e Germania che giocano in Francia, la casa di chi è? No, vabbè Ale, questo è troppo difficile. Allora, sulle maglie abbiamo capito che è molto difficile. C'è un'altra cosa però che io non ho capito. Un'altra? Solo una però. Anche un'altra, e anche su questa però non sono l'unica. Allora, il fuorigioco... e quando non vengono contati i minuti, 90 minuti, quindi... è quando un giocatore di una squadra, supera... in realtà è cambiato durante la mia adolescenza, quindi sarà difficile ricordare. Quando la palla sta nell'area di rigore della squadra avversaria? Giusto, in effetti. No. La linea, non si spiega a parole, ma questa è una cosa un po' misogina, no? Voglio fai. C'ha ragione però, secondo me un po' sì. Arretramenti di chi sta più avanti e di chi sta più indietro. C'è quello che sta facendo l'azione, che si sta fuori gioco e che non è andato più avanti di qualcuno, ovviamente della squadra. Questa è giusta. Questo non ho mai capito, se della squadra. Insomma, no. È facilissimo. Fuori gioco è quando? È facilissimo. Allora, io sono un giocatore della stessa squadra. Io. Di quale? So che c'è una linea. La linea c'è, però la linea è una certezza. No. Io tiro la palla al mio. Collega, io mo te la passo sta palla. Quando io tiro la palla, davanti a me non ci deve essere nessuno, il nulla. Cioè, se io faccio l'assist, viene la porta è vuota. L'assist. Da un suo compagno di squadra. Che era preparato. E si trova da solo nel campo. Il gioco è un passaggio su marcate. La telecronaca. Sei per fare un tiro in porta, mm-hmm. E quel il guardalinea alza la bandiera e dice no, non va bene, è fuori gioco. Vabbè, ma è come se io ti chiedessi, uomo, la differenza tra attacco e plateau. La sanno. No. Forse sì, invece, hai ragione. Senti, è così. Allora, il fuorigioco rimane un mistero per la maggior parte di noi, però per evitare di esultare quando fanno gol ma in realtà è fuorigioco, oppure chiedere a metà partita come mi è successo, ma noi quali siamo? Oppure hanno detto un'altra cosa, il quarto uomo, ma chi è sto quarto uomo? Quello che viene dopo il terzo. Ah, va bene. Dai. Comunque... Smam, scaricatevi questa app, si chiama I Love Calcio e ti spiega tutto, tutto, tutto, tutto. Ma tutto, tutto, tutto? Quasi tutto, tranne una cosa. Quale? Ma perché si pettinano in quel Brava, modo? Brava, ecco, ma c'è un'altra cosa, oltre la pettinatura. Quale? Io mi sono chiesta, no? Ma, voglio dire, se loro colpiscono la palla di testa con la cresta, che succede? Crolla tutto. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per te. Le sorridenti mister dopoguerra, pettinate come lei. È uno dei più grandi miti cinematografici del Novecento. Norma Jane Mortenson Baker Monroe, Marilyn, scomparsa il 5 agosto 1962 nella sua casa di Brentwood a Los Angeles in seguito a un'overdose di barbiturici. Un suicidio che ha fatto nascere innumerevoli congetture, continuando ad alimentare il mito di Marilyn, adesso al centro del nuovo libro di Giovanna Grignaffini, Come il volo di un colibrì, in cui i protagonisti si ritrovano sotto lo stesso tetto sull'Appennino emiliano per affrontare il progetto di realizzare un film su Marilyn, appunto. Giovanna Grignaffini è stata parlamentare dal 94 al 2006 facendo parte della Commissione Cultura della Camera, ha insegnato teorie e storia del cinema al DAMS, ha scritto saggi sul cinema e sulla teoria dei media e dopo Però un paese ci vuole, Come il volo di un colibrì è il suo secondo romanzo. Giovanna, perché proprio il colibrì? Perché il volo del colibrì è un enigma, è un mistero che l'occhio umano non sa decifrare e per farlo ci vuole il cinema e la fotografia. E allo stesso modo la poesia di Marilyn Monroe è una poesia segreta, è un enigma, è una pluralità di dimensioni che solo un occhio non umano, quello del cinema e la fotografia, ci può aiutare a guardare. Ecco, i suoi protagonisti, tra le altre cose, hanno in comune la passione per Marilyn. Ma qual è il segreto del fascino di Marilyn? Il segreto del fascino di Marilyn è come il segreto del fascino del sorriso della Gioconda, cioè un enigma che si può prolungare, amplificare, ma non svelare. Però di Marilyn possiamo dire che questo segreto è legato al fatto che lei è una diva nel senso classico del termine, cioè una creatura che appartiene per metà alla realtà e per metà all'immaginario. Ed è solo questa confusione tra reale e immaginario che la fa entrare nel mito. Marilyn non è invecchiata, diversamente da tutte le altre attrici del cinema, anche le più grandi come Greta Garbo, che sono diventate obsolete da un certo punto di vista. Ma Marilyn Monroe è, fino in fondo, lo diceva Truffaut, una creatura, una persona che ha la grazia, cioè una persona, non un'attrice. Però Marilyn, imprigionata anche in qualche modo nel suo ruolo di simbolo e di icona, è stata anche vittima di questo mito? Sì, certamente, lei ne era assolutamente consapevole, diceva se proprio devo essere un simbolo, preferisco essere della sessualità che di altri tanti simboli da cui, con cui si può giocare. Ma questo suo stare dentro e fuori, perché Marilyn, non dimentichiamocelo, era anche una persona dotata di una grande ironia, non c'era solo malinconia, tristezza, fragilità nel suo sguardo, nella sua figura, oltre uno straordinario slancio vitale, una forza quasi naturale, era anche una persona che si guardava, che guardava la propria espressione, che guardava il proprio stare nel mondo e sottolineandolo in questo modo forse è riuscita a salvarsi dal potere mortifero che ogni mitologia comporta. Marilyn ha avuto comunque una vita sentimentale tormentatissima, da Jodie Maggio a Arthur Miller, ma soprattutto i due Kennedy, Bob e John. Ma secondo lei qual è stato il suo vero grande amore? Il suo vero grande amore, come diceva lei, è stato il cielo, l'oceano, il mare intero, cioè la grande comunità degli spettatori, dei fan che l'hanno amata e che la continuano ad amare, perché dal punto di vista delle sue relazioni sentimentali, come peraltro per tutta la vita di Marilyn, siamo nel campo delle dicerie, delle mitologie, dell'immaginario, cioè siamo all'interno di quei fatti che forse non accaddero mai, ma che continuano a vivere. Senta, lei, lo abbiamo detto, ha insegnato per molti anni teoria e storia del cinema, ma Marilyn sicuramente un mito, sicuramente un personaggio con dei segreti molto affascinanti, ma è stata anche una brava attrice. Sì, è stata una grandissima attrice, solo che diversamente dalle attrici e del passato, ma soprattutto quelle contemporanee, la sua qualità di attrice non ha cercato di affinarla per diventare qualche personaggio. Quando pensiamo a Meryl Streep, a cosa pensiamo? All'insieme dei personaggi a cui lei ha dato vita. Marilyn Monroe, paradossalmente, per tutta la vita non ha fatto altro che affinare la sua tecnica di recitazione e di posture, esposizione, per confermare l'idea di Marilyn Monroe. Come il volo di un colibrì, Giovanna Grignaffini, Bompiani. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Lo sai che l'altro giorno mi hanno riconosciuta per strada per la rubrica? No, scusi Donatella, da cosa l'hanno riconosciuta? Secondo te da cosa, scusa? Dillo. Dalla voce, no? Ma sei scema? Ho litigato con uno che mi ha tagliato la strada e quando l'ho mandato a fare diavolo, lui si è girato e mi ha detto che c'ho proprio la voce e anche la faccia da puntata. No, Donatella, è sicura che le abbiano detto puntata? Guarda, io ti capisco che ti rode perché seguono solo le mie puntate e non le tue, però l'invidia non è un sentimento che giove. Ah, certo, non giove infatti. Senta, Donatella, no. Io sono molto contenta per lei. Ora le andrebbe di parlarci del film di oggi? Diciamo che sono qui per questo, anche se a dire la verità sono in questo cinema qui perché è vicino alla palestra di Zumba dove zumbo anche io. Ah, lei Zumba? Sì. Comunque è divertentissimo e schifosissimo perché parla di sesso strano. Infatti si chiama Kiki e i segreti del sesso. Benvenuto in Cagni in Calore, conosce il nostro servizio? È la prima volta che chiama? In effetti, vede, sto facendo una videochiamata con un ragazzo sordo. Universitarie, tettone, transessuali. Hai capito? No, vabbè. Allora, in questo film, che te lo dico, è un po' zozzo, come quelli che piacciono a te. No, Donatella, sì, scusi, sì, ma lei si è fissata. Ormai lo va bene, tutti. Va bene, lo sanno tutti, bene. Si parla di tutte quelle persone che si eccitano a fare le cose strane. Tipo che c'è una che si ingrifa quando viene rubata. Hai capito? Ho capito, Donatella, va bene. Poi c'è una che c'ha i desideri solo quando il fidanzato piange. Insomma, un sacco di cose assurde. Quando piange? Sì! È sicura? Quando piange, sì! Qui non c'è neanche una volta, c'è tanto sesso, ma non c'è neanche una volta quelli che fanno la posizione del sacerdote. Il missionario, vuole dire lei? No, quella del missionario è quella dove sotto ci stai tu e quello sopra si sacrifica, fa la missione. Senta, Donatella, andiamo avanti? Sì, va bene. Però... allora, che cosa mi vuole dire del cast? Niente. Bene. Perché io ho difficoltà con i nomi e anche con i foglietti con i nomi scritti sopra, perché mi ci soffia il naso e poi non riesco più a leggerli. Donatella, lei mi fa orrore certe volte. Facciamo così. Ci dica, che per cortesia, se vale la pena vedere Kiki e i segreti del sesso di Paco León, con Paco León, Alex Garcia e Natalia De Molina. Tantissimo! Io mi sono divertita un sacco a vedere tutti questi scemi che si accitano a fare cose strane. E poi è un film di culi, tette, sessi assurdi. E no, va bene, grazie Donatella. Grazie. E poi fa ridere un sacco. Bene. Vabbè, prego. Comunque la voce da puntata ce l'hai anche tu. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Dove andiamo oggi, Pietrangelo? Oggi Alessandra, ti porterò a vivere, a passeggiare, ti farò immergere nell'arte. Ah, ma allora ho capito, andiamo al Lago di Iseo sulla passerella di Cristo. Ma che dici? E come che dico? Ma che Lago di Iseo, no. Il lago, Dio ce ne scampi. Intanto ti faccio vivere un coccio d'amore. La faccia bella sente sta canzone. La canto solo a te, coccio d'amore. E allora, mio coccio d'amore, ti porto sull'atelier sul mare, in un posto meraviglioso, la Marina di Tusa, ed è qui con noi Antonio Presti, un mecenate, un grande che ha saputo creare questa meraviglia. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti, grazie. L'Art Hotel Atelier sul Mare, un albergo museo d'arte contemporanea a pochi metri da un mare appunto meraviglioso, nei pressi di Cefalù. Le terre di Pietrangelo, la Sicilia che ritorna. Le terre dell'universale, perché la Sicilia appartiene a un concetto universale, giusto Antonio? Sì, è terra di grande madre, la nostra terra di Sicilia. I siciliani poi l'hanno a volta offesa riportando la valori e codici che non ci appartengono. La Sicilia è terra di terra e per questo ho creato un grande patrimonio di arte in nome della contemporaneità, un museo che educa ogni giorno un pubblico che non guarda più il quadro, la scultura, ma entrando dentro la stanza di un albergo ritorna emozionalmente a riprendersi quel valore di essere opera. Io ho visto che sono 40 stanze, 20 delle quali realizzate appunto da artisti contemporanei. Quali sono le tre stanze che preferisci? L'artista che crea non sceglie mai un particolare, è sempre a servizio dei generali. Abbiamo la stanza del Profeta, l'omaggio a Pierpaolo Pasolini, abbiamo la stanza dei Portatori d'Acqua realizzata da Daniel Mitterrand. Abbiamo l'ultima opera che abbiamo inaugurato proprio in questi giorni di Ottavio Cappellano nella stanza. Ottavio, lei deve sapere che Ottavio, nostro grandissimo amico, è anche un ascoltatore fedelissimo. Io dormirei nella sua, mi perdoni. Sì, però lei per scegliere nella stanza di Ottavio Cappellano, lei deve affermare nella coscienza: io sono il blu. Io sono il blu. È il blu. Quell'anima universale che ci accompagna dall'alba al tramonto, e noi come valore di conoscenza quell'essere blu l'abbiamo a volte tradito per la mediocrità. E questo luogo di Casertitusa, questo museo albergo, restituisce tutto questo in prima istanza come educazione, educare il pubblico, educare all'arte. Antonio Presti, cara Alessandra, oltre a essere mecenate, è anche una guida politica, a maggior ragione quando in una Sicilia devastata, come recentemente con gli incendi, lui nel rito della luce, nella piramide, che è uno dei luoghi magnifici, belli, superbi di questa grande invenzione che è Fiumara d'arte, ha lanciato un anatema ben preciso. Un uomo che brucia la propria terra deve essere maledetto. Bruciando la tua terra per affari e per soldi, tu distruggi l'anima di quella bellezza per i tuoi figli e anche per una storia di Sicilia contemporanea che speriamo una volta per tutti scelga non la via dell'anti, ma la via del fare. E fare bellezza è un fare universale. Antonio, ma come andrà a finire? Vedremo in spiaggia un incontro tra Pietrangelo e Crocetta? No, che c'è? Ma io ho fatto un'opera monumentale, la prima scultura, che si chiama di Pietro Consarra, si chiama La materia poteva non esserci. E allora se dobbiamo essere e chiudere anche come metafora, possiamo dire pure Crocetta poteva non esserci. Ciao Antonio. Grazie, Antonio Presti. Grazie a voi, vi aspetto a tutti. Ciao, Atelier sul Mare in Sicilia. Buongiorno Franco Schifani. Buongiorno Alessandra Fiori. Porti subito a via Piccolomini. Via Piccolomini, via Piccolomini. Mi faccia pensare. Scusi, cosa c'è da pensare? Leva dritto, volta a destra, poi volta a sinistra, va ancora dritto, siamo subito arrivati. Beh, appunto, che mi fa fare tre scatti? Paolo Panelli e Bice Valori, inconfondibili. C'è ma una... via Piccolomini a Roma? Sì, via Piccolomini a Roma. Ma via Piccolomini è quella che tu la percorri direzione San Pietro? Non lo so. Te lo sto dicendo, ti avvicini e in realtà la cupola si allontana. Quindi domani vendo il Tom Tom. Ti ancora invito. Stai col Tom Tom? Sì, io sai, tecnologicamente. No, questa è un'altra puntata, Franco, ne parleremo di cosa dobbiamo fare per te. Paolo Panelli, che è un cinico fustigatore dei vizi di un'Italia in preda al boom economico, e Bice Valori invece uno straordinario temperamento artistico dai tempi comici perfetti, quindi una coppia esplosiva nella vita e sul palcoscenico, protagonisti assoluti di una televisione in bianco e nera, beh, di altissimo livello, una storia fatta di grandi rinunce personali, di tanta gavetta e poi di un grandissimo successo. Ce lo racconta Giovanni Minoli, restate in ascolto.